tempo immemore c'era un vulcano che era solo al mondo e sognava compagnia. Osservava intorno a sé tutte le altre coppie e sperava che accadesse a lui. Dalla sua lava uscì un canto in cui ogni giorno lui esprimeva il suo desiderio. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. Io chiedo un amore che il cuore mi avvolga e come lava lo sciolga. Dopo molti secoli stava per estinguersi, perciò lui pensò di arrendersi così. Eppure proprio là in mezzo alle profondità da tempo c'era già un'altra uguale a lui. Quella dolce melodia nella sua fantasia credeva proprio che la dedicasse a lei. Ed era pronta per restare accanto a lui, non sapendo di ascoltarlo l'ultima volta. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. Io chiedo un amore che il cuore mi avvolga e come lava lo sciolga. Stava lì immobile, era incantevole, ma non vide che lì dietro c'era lui. Cercava di cantare, ma la bocca ormai era già sommersa e perciò non ci riuscì. Quando poi sprofondò, il sogno si sgretolò, ma lei si ricordò la sua melodia. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. Io chiedo un amore che il cuore mi avvolga e come lava lo sciolga. Felice perché l'aveva lì accanto a sé, nulla poté più dividerlo da lei. Insieme per l'eternità, benvenuta felicità. Da una melodia nacque un'armonia. La cosa che io sogno di più è che accanto a me ci sia per sempre tu. Ed ogni attimo in cui io vibro ti me.